Dall'ineffabile Svizzera ricevo una lettera che inizia col dirmi quanto segue. Egregio signor Akame, oggi le scrivo perché lei fa parte di un gruppo di persone da me personalmente selezionato, alle quali posso fare un'offerta del tutto speciale. Si immagini per un attimo una situazione di questo tipo. Due punti. È mezzogiorno. Lei è seduto al bar della piscina di un meraviglioso villaggio turistico in Florida e sta gustando un leggero spuntino. Oppure, due punti. Dal salotto di uno spazioso appartamento lei sta ammirando il grandioso Hyde Park con in mano una tazza di tè fumante. La lettera prosegue per parecchi capoversi fino a riempire due pagine intere, ma io mi fermo qui. Mi fermo qui perché ne sono già soddisfatto abbastanza. Ne sono soddisfatto perché chi me l'ha inviata si è sbagliato di grosso. Io, a mezzogiorno, non vorrei mai e poi mai trovarmi seduto al bar di una piscina. Tantomeno se questo bar è in un villaggio turistico, meno ancora se questo villaggio turistico è in Florida, e nemmeno con una pistola da tempia vorrei averci la prospettiva di un leggero spuntino. A me andrebbe bene uno stinco di maiale al forno con patatine, a casa mia. E neppure vorrei poter ammirare un Hyde Park con una tazza di tè fumante in mano. Mirerei più volentieri a un quartino di Bonarda e, grazie al minimo di inglese che so, mi chiedo anche che diavolo sia saltato in testa a qualcuno di dedicare un parco a Mr. Hyde, uno che nel noto racconto di Stevenson non ci fa affatto una bella figura. Se tuttavia allorché sono stato selezionato dal tale che con tanta fiducia in se stesso mi scrive, si è ritenuto opportuno parlarmi in questo modo, gioco forza, devo nutrire anche qualche preoccupazione. Preoccupazione per quei miei simili che dalla giusta posizione di villaggi turistici, di bar, di piscine, di Florida, di Hyde Park, di eterei spuntini, di taumaturgiche resciacquature di stoviglie, traggono sufficienti motivi per lasciarsi convincere di qualcosa. Le leggi della retorica sono più o meno sempre le stesse in ogni tempo e in ogni paese, ovvero fanno leva sui valori più diffusi dello scambio sociale, ma la fragilità dei valori attualmente in uso a fronte dei problemi che collettivamente dobbiamo affrontare, è davvero disarmante. Ebete turismo ed ebete salute costituiscono l'ambito premio per chi da diseredato sfrutta altri diseredati e per chi da malato è servilmente disponibile ad estendere il contagio. Con dovizia di particolari riferiscono le cronache circa quanto è accaduto l'altra sera lungo un muro di cinta del cimitero maggiore. Sembra che sette persone di sesso maschile in età compresa tra i 22 e i 35 anni siano state sorprese nude e disposte in fila. Da ciò l'intervento dell'autorità costituita e non so se a causa della nudità o della disposizione lineare, non so, la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Chi avrà la fortuna di poter assistere al processo, se processo si farà, e probabilmente si farà, visto che a quanto se ne sa nessun membro del governo è ivi implicato, chi avrà la fortuna di poter assistere al processo ne saprà di più. Anche sulla funzione simbolica dei cimiteri nell'immaginario dell'urbanità. Attualmente, grazie alle notizie di stampa, possiamo soltanto approfondire un lato, per così dire, sociologico dell'evento. Per correttezza politica, infatti, spariscono, quando fa comodo, i nomi e le nazionalità d'origine dei rei, no? Ma in virtù di quella strenua convinzione borghese che crede di dover individuare nella professione la moralità passata, presente e futura della persona, siamo messi in grado, diciamo ancora una volta per così dire, di tastare il polso al mercato del lavoro. Dicono infatti i giornali che i 7 nudi e in fila erano suddivisi in 2 disoccupati, quindi un rapporto numerico con gli occupati che andrebbe oltre l'aspettativa più rosea del governo Berlusconi, un infermiere, un musicista, un autista, uno stilista e un giornalista. Quanto basta, insomma, per una memoria difensiva vincente? La presenza dello stilista, per esempio, giustifica appieno l'abbigliamento, e quella del giornalista l'esigenza imprescindibile di documentare la vicenda. Tutti facciamo degli sbagli. Mi chiedo se la lettera che ho ricevuto sia stata inviata anche a qualcuno dei 7 nudi e in fila al cimitero maggiore, o se nessuno di costoro sia stato personalmente selezionato dallo stolido svizzero. Analisi ideologica alla mano, per niente al mondo lo stolido svizzero, per vendergli che sia, avrebbe suggerito di immaginarsi per un attimo in una situazione di questo tipo: a luna di notte, nudo, lungo la cinta del cimitero maggiore, in fila con altre 6 persone, in trepida attesa di un nucleo radiomobile dei carabinieri, senza neppure lo straccio di un leggero spuntino né di una tazza di tè. Eppure loro sette, liberi dai ceppi dei calcoli statistici, presumibilmente proprio questo volevano e ad altro non ambivano. Tutti facciamo degli sbagli, ma se fra questi tutti ci sono anche gli spacciatori svizzeri di turismo, c'è ancora qualche speranza di rimediare. Con altre persone sono seduto attorno ad un tavolo, è la classica riunione di lavoro, si fa per dire di lavoro, si discute di un progetto, si discute più o meno rispettando il proprio turno, ciascuno dice la sua, vabbè. Chi parla per ultimo, magari dopo aver imposto agli altri la pesantezza del suo silenzio, di solito quello che ha più autorità spesso finisce con l'avere ragione. La riunione va avanti da un bel pezzo e non se ne vede la fine. Come uno ha già fatto ricorso abbondantemente alla bottiglia, l'ormai canonica bottiglia dell'acqua minerale, rigorosamente priva di addizionata anidride carbonica, allora un altro chiede se a qualcuno dei presenti dà noia il fumo. Il pensiero è altrove o domina l'indifferenza, il permesso è presto accordato. Quello si tira fuori il suo pacchetto di sigarette e se ne accende una. È in questo preciso momento che io sposto leggermente un oggettino di design che si trova sulla superficie del tavolo. Lo sposterò di un centimetro e mezzo, niente di più, minimamente, ma nella direzione del fumatore. È una sorta di cubetto decolorato in qualche materiale a me sconosciuto ed è sicuramente l'esito del genio di qualcuno la cui firma ne avrà moltiplicato il prezzo. Sembra vuoto, tanto vuoto che il fumatore se ne serve all'istante, buttandoci tutta la cenere che riesce a produrre. Ci schiaccerebbe anche il mozzicone se non intervenisse il padrone di casa facendogli notare che quello è un prezioso portapenne, vuoto sì, ma prezioso portapenne. È a questo punto che colgo nel fumatore un'occhiata malevola nei miei confronti. Capisco, è stata colpa mia, e già che c'ero anche me ne sono pubblicamente scusato. Quel minimo spostamento dell'oggetto nel momento in cui il fumatore si accendeva la sigaretta è stata sufficiente per far sì che egli lo categorizzasse come posacenere. È un po' l'analogo di quegli esperimenti psicologici in cui vi è messo un tizio elegante e sicuro di sé ad un semaforo, no? Se lui fa tanto di attraversare la strada, c'è sempre qualcuno che lo segue, nonostante il semaforo sia rosso. Se ad attraversare la strada ci si mette invece uno vestito come un barbone male in arnese, gli altri invece non lo seguono affatto e si accorgono, in men che non si dica, che il semaforo è rosso. Certi comportamenti sono epidemici. Basta pochissimo a diffondere l'infezione e la diffusione è più ampia, maggiore l'autorità di chi dà il via al processo. Qualcosa del genere può essere accaduta anche nei pressi del cimitero maggiore, peraltro, ha cominciato a spogliarsi uno in questa nostra epoca di idolatria della moda, punterei sullo stilista, e gli altri lo hanno seguito. Sappiamo ormai tutto dell'antrace. Le autorità ci hanno spiegato che presenta un primo quadro sintomatologico non dissimile dall'influenza e che se ci si cura prestissimo, prima che compaiano i sintomi, ci se la può cavare. Queste medesime autorità, tuttavia, precisano che il criterio per riconoscere la malattia inizialmente non deve essere clinico, ma epidemiologico. Come comunicazione questa non appartiene di certo al genere delle rassicuranti. Per definizione, prima di essere considerato oggetto di indagine epidemiologica, ovvero prima che molti altri siano stati considerati infetti come lui, l'infetto è già morto. Come peraltro nel portapenne oggetto di design, se è vuoto ci finisce di tutto prima di essere riconosciuto come tale. Come il passante che passa con il rosso, finisce sotto l'automobile prima di aver fatto la dovuta autocritica sulla propria tendenza alla subordinazione ideologica, come i nudi in fila al cimitero maggiore finiscono denunciati prima di rendersi conto della miseria dell'emulazione, come il sottoscritto, che già restio agli spuntini, fugge decisamente quelli leggeri, portando al fallimento le furbesche agenzie turistiche.